Radio Plaza. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutte le persone che stanno ascoltando. Buonasera. Ancora una puntata di Radio Plaza. Sì, siamo ancora su collettivoutopia.noblogs.org in diretta da casa BRSC e siamo pronti per una nuova puntata di questo giornale Radio Plaza. Sì, ricordiamo che questo è il radiogiornale di Radio Plaza che sta seguendo ormai dall'arrivo la delegazione degli zapatisti arrivati in Campania ed oggi siamo a domenica 24 ottobre. Sì, questa è Radio Plaza. E questi sono i titoli del radiogiornale. Il racconto della giornata, voci, suoni ed emozioni dall'incontro di oggi con la delegazione zapatista. E poi la voce di chi ci ha messo la faccia, intervista a Fulvio dei Cobas. Cosa succederà domani? Presentazione del prossimo appuntamento. E spazio alla rubrica di arte e cultura, suggestioni e suggerimenti da quell'esperto lì. E poi le favole del subcomandante Marcos, un racconto al giorno prima di dormire. Questa è Radio Plaza, la radio all'improvviso che si spiazza e impazza in piazze pazze, reali e virtuali. Radio Questa Plaza. Questa è Radio Plaza. Trasmissioni ultrafoniche. Questa è Radio Plaza. Musica, letture e voci in comunicazione immediata. E queste invece sono subito le voci, il racconto della giornata, voci, suoni ed emozioni. Dall'incontro di stamattina a Marigliano con la delegazione zapatista. Posso chiedere a qualcuno di voi, ma stamattina avete letto un testo zapatista e di che cosa parlava? Per curiosità. Che diceva nel testo? Era facile o era difficile? Un poco. Interessante? Sì, voi già conoscete questa storia? No. Ah, va bene, grazie. Grazie, come sta andando? Bene. Stamattina che è successo prima che venissimo noi? Non lo so, io sono arrivato dopo di voi. Wow, bravo. Allora, questo è il primo incontro internazionale della nostra scuola. Il primo incontro per tutti gli studenti della scuola d'italiano con un popolo che abbiamo invitato e che per noi è fonte di ispirazione. Io sono stato scelto oggi per parlare, ma al mio posto avrebbe potuto parlare chiunque, perché in questi anni di impegno siamo stati tutti testimoni di una politica che come minimo si è dimostrata indifferente e disinteressata alla costruzione di processi di integrazione che alza i muri che respinge. Come l'hai trovata questa mattinata? Allora, penso che è una bella mattinata, soprattutto il fatto che ci siano gli alunni che stanno proprio studiando e che è una forma di lotta, appunto, quello di studiare, perché l'istruzione è la prima cosa. E vedere compagni e compagne che fanno questo da 30 anni fa, che portano la loro esperienza, penso che sia un momento di apprendimento uno verso l'altro. Com'è andata la giornata? Bene, molto bene. Abbiamo fatto un'assemblea con gli studenti della scuola d'italiano e gli zapatisti ci hanno parlato un po' non solo del loro sistema di governo, ma anche di come intendono l'educazione. Quindi un'educazione che parte dal basso. Per me è stato molto bello e molto formativo perché ho la possibilità di confrontarmi con un sistema educativo differente in cui credo molto, tra l'altro. Un'educazione che parta dal basso e che non sia solo titoli. Come ti è sembrata l'atmosfera della mattinata? Molto bella, quasi surreale. Wow, chiudiamo su surreale allora, grazie. Di Radio Plaza e stiamo registrando solo per sapere che cosa avete se volete dirci qualcosa di questa giornata, se vi è piaciuta. Momento musicale continua, ci sì, io prima posso vai. Allora, io sono la prima domenica che io vengo. Wow. E mi è piaciuto, diciamo, questa procedura, questa cosa che ho sentito. E mi ha dato anche una voglia di continuare a sentire tutte queste cose, perché è una storia, non dico bellissima perché sono sofferti, però mi fa piacere sentirla, così capisco cosa passano la gente nel loro difficile, perché per noi la vita è facile, però sentendo queste cose rimaniamo male. Non conoscevo questa, infatti quando l'ho sentita mi è venuto un dolore, però sono contento che loro sono coraggiosi di andare avanti. E quindi ti ha portato voglia di... Sì, mi ha portato voglia di seguire questa storia fino alla fine. Che bello, grazie mille. Grazie. Posso chiederti... Non ti... Come sta andando questa giornata? Benissimo. Cosa sta succedendo? Come... Raccontaci un po' qualcosa di bello. In questo istante... Quello che vuoi, le tue emozioni, le tue sensazioni. Allora, è stato un momento bellissimo di comunità, aggregazione. È stato bello ascoltare la loro storia e diciamo il loro progetto che continua. Ed è stato bello vedere come anche la nostra comunità e la nostra associazione abbia tanto in comune con loro. E in questo istante ora c'è un bellissimo momento di aggregazione musicale. Grazie! Grazie per la prova! Así como el maicito, hay que echarles agua y abono. Así también el que oprime, hay que echarle bomba y plomo. Una bala de trayetas que arma los cuernos de chivo. En la ciudad de Ocosingo, como a las 3 de la tarde, con la peca en la zona. E questo quindi era il resoconto registrato della giornata, della mattinata veramente svoltasi a Marigliano presso la scuola di italiano per stranieri dell'associazione Ya Basta in collaborazione con l'altra associazione Nova Koinè. E passiamo invece al pomeriggio, ci siamo visti a Scampia per sentire il resoconto dell'incontro che si è sviluppato presso Kikù su educazione tra resistenze e autonomie tra la delegazione zapatista e gli operatori del settore scuola. Com'è andata? Come va? Com'è questa festa, incontro con gli zapatisti, le zapatiste? Vabbè, loro sono un mito per tutti noi e quindi incontrarli così fisicamente è veramente molto emozionante. Restano intorno alla loro figura tutto il desiderio di poter capire come non replicare, perché la replica non è una questione, diciamo, no, di ripetizione così, ma come capire i sistemi, che quali sono le molle che scatenano, no, poi delle capacità di attivare il desiderio, ma anche lo strumento, e quindi poi la finalità e il risultato. Quindi resta questo, il desiderio del viaggio, no? Condiviso, perché uno può effettivamente ascolta, fa, si documenta, però credo, diciamo, che questa, l'incontro di cui loro parlano, hanno ripetuto più volte di come sia prezioso l'incontro, sia reciproco, e quindi diciamo che noi anche possiamo trovare gli strumenti per poter viaggiare in questo mondo e capire meglio quello. Che forse, diciamo, il troppo ancoraggio alle situazioni territoriali non ci aiuta. E il fatto così, che siano proprio qua oggi, a Kikù? Cioè, questo è proprio un dono. L'abbiamo percepito come un dono loro, ma anche della rete intorno che l'ha proposto, perché non... credo che c'entrate anche voi in questo, e quindi vi ringraziamo anche a voi. Il fatto, diciamo, di aver pensato che un posto come questo fosse un posto che potesse accogliere, e che quindi simbolicamente tutta una periferia potesse essere in grado di accogliere, no? Perché noi non lo sappiamo. sappiamo, ma il fatto, diciamo, che ci riconosciamo come comunità in cammino è molto prezioso. Che bello questa immagine che hai dato della comunità in cammino. E l'energia come la senti? Noi parliamo piano piano perché è ancora in corso l'incontro, esatto. Ma com'è, cosa hai percepito nell'aria? Percepisco che c'è un grande livello di insoddisfazione latente, diciamo, molto forte, e che quindi, diciamo, la capacità adesso di entusiasmarci forse, diciamo, è mantenuta a bada, diciamo, da questo livello di grande frustrazione nella quale viviamo, esasperato da questi 2 anni di pandemia. Però, diciamo, la grande volontà di nutrirci di queste esperienze, e soprattutto questo richiamo alla madre terra, lo sento proprio vitale, no? Al di là di tutto, questa riconnessione con la natura, con noi stessi, con la madre terra, con la ricerca di questo equilibrio, la sento proprio vitale. Che bello, grazie. Grazie a te. Grazie. Questa era la voce di Barbara Di Chicù, che ci ha raccontato quali sono state le sue emozioni, sensazioni di quell'incontro che era ancora in corso quando noi abbiamo fatto questa registrazione. È finito da poco, abbiamo saputo che è finito da poco e ne parleremo ancora. Intanto però vi presentiamo l'orchestra di Piazza Vittorio, un'orchestra multietnica nata nel 2002 all'interno dell'associazione Apollo 11, un progetto sostenuto da artisti, intellettuali e operatori culturali che hanno voluto valorizzare il rione Esquilino di Roma, dove gli italiani sono una minoranza etnica e dove la musica che vince. E allora andiamola ad ascoltare questo brano dell'orchestra di Piazza Vittorio, che trovate nell'album appunto Orchestra di Piazza Vittorio del 2005, e il brano è Tarareando. Parereto pepe, paribore pepe, ropo, pope, ropo, pete. Pra pa pa pa pa priputepe, pa pa priputepe, pa pa to pepe, paribore pepe, ropo, porepe, perero. Pa para pa pa pripata, pa parure, parereto pepe. Paribore pepe, ropo, pope, ropo, pete. Pra pa pa pa pa priputepe, pa pa priputepe, pa pa to pepe. Paribore pepe, ropo, porepe, perero. Ripi, mara para pa pripi, pi, mara para pa piribi, piribi, mara para pa pripi, pi, mara para pa pi, ripi. Mara para ba piri bi piri bi mara para ba piri bi piri bi mara para ba piri bi piri bi pa pa para ba du pe bra da du ba pa para ba du ve ra ba na da du ba pa para pa pa piri pa ta pa parure parere tu pepe. Paribore pepe, ropo, pope, ropo, pete. Pra pa pa pa pa priputepe, pa pa priputepe, pa pa to pepe. Paribore pepe, ropo, porepe, perero. Pra pa pa pa pa pripata, pa parure, parere to pepe. Paribore pepe, ropo, pope, ropo, pete. Pra pa pa pa pa priputepe, pa pa priputepe, pa pa to pepe. Paribore pepe, ropo, porepe, perero. Para bana bupe, brada duba. Para bada duveira, banana ruba. Thank you. para pa pa pri pa ta pa parure pareretto pepe paribore pepero po po pero po pete pra pa pa pa pa pri pute pe pa pa pri pute pe pa pa to pepe paribore pepero po po pepe perero bom bom be. E questa era l'orchestra di Piazza Vittorio, davvero un gran bel esperimento che va avanti ancora. E adesso invece è arrivato il momento di ascoltare la voce di chi ci ha messo la faccia. E quindi abbiamo al telefono con noi uno degli organizzatori della giornata di oggi, ricordiamo dedicata a educazione tra resistenze e autonomie. Abbiamo al telefono Fulvio. Buonasera Fulvio. Buonasera. Come va Fulvio? Va bene, è stata una bella giornata anche oggi, un po' pesante insomma, ma molto bella, densa di argomenti, di scambi, bella. Allora Fulvio, noi ti abbiamo presentato come COBAS, rappresentante dei COBAS dell'area scuola, giusto o abbiamo sbagliato? Sì, io sono un insegnante, sì, sono un insegnante, io lavoro in una scuola pubblica, quindi sono insegnante di scuola. Senti, sei insegnante o docente? Docente. Ah, sei un dux. Anzi, voglio dire maestro, perché maestro è la parola con cui i messicani in genere chiamano gli insegnanti e li chiamano dalle elementari all'università maestro. Allora, vogliamo dire a tutte le nostre radioascoltatrici che Fulvio ha partecipato come parte attiva e organizzatore dell'incontro avuto oggi tra la delegazione zapatista per la gira zapatista e gli operatori del settore scuola, più o meno, molto interessante. Io parlerei degli operatori del settore educazione, perché c'erano del anche realtà educazione. Non proprio all'interno della scuola. Sì, e quindi vogliamo fare queste interviste con quelli che organizzano proprio per dare voce a quei movimenti che hanno dato la loro disponibilità all'accoglienza della gira zapatista. E quindi chiediamo a Fulvio, per quanto riguarda la giornata di oggi, chiediamo a Fulvio chi siete, che cosa fate, di cosa vi occupate e per quale motivo avete accolto con grandissimo piacere la proposta di accogliere gli zapatisti in Campania. Beh, noi crediamo insomma nel valore rivoluzionario dell'educazione. Vediamo che questo valore in realtà è sempre più lontano dalla realtà, nel senso che l'educazione, la scuola è sempre più lontana da questi obiettivi, ma ci proviamo lo stesso. E insomma, quindi svolgiamo un tipo di lavoro per controcorrente, ecco, contro quella che è la tendenza che oggi la scuola e l'educazione in generale sta assumendo. Insomma, ovvero piegarsi alle logiche del mercato e assumere il modello del mercato, anziché quello della bellezza, perché il sapere è bellezza. Sì. Ci siamo entusiasmati quando abbiamo saputo dell'arrivo degli zapatisti in Europa, perché ovviamente si tratta di un'esperienza appunto rivoluzionaria realmente, non l'hanno, ecco, non sono intenzioni come le nostre, ma sono realtà, lo stanno costruendo, hanno cominciato 30 anni fa, lo portano avanti con grande difficoltà, perché insomma è molto difficile, e quindi per noi sono un esempio, un modello, una possibilità reale che appunto ci porta forza, ci dà forza, ci motiva fortemente. Poi in particolare, ecco, loro hanno saputo anche creare un'alternativa alla non scuola che non avevano, appunto. Anzi, se posso raccontare un aneddoto di quando sono stato in Chiapas, posso? Vai, certo. È stato addirittura anticipatore dei tempi, perché io ricordo stavamo andando a Oventic, al Caracol di Oventic, e a un certo punto vidi questa scuola che segnalava, diciamo, una grande informatizzazione. Noi eravamo in una zona di montagna veramente molto povera, mi ricordo i bambini insomma che stavano sulla strada a chiedere le elemosine, una zona poverissima, e vidi questa scuola che mi meravigliò in quanto annunciava grandi tecnologie. Quindi ci fermammo dietro una sbirciata e in effetti si faceva in quella scuola, sto parlando di una cosa di almeno 4 anni fa, in quella scuola si faceva la didattica a distanza. Ah. In realtà, ecco, questa tecnologia nascondeva una grande truffa. Siccome quel paesino, diciamo, era troppo lontano per essere servito dalla scuola pubblica, anziché mandare tanti insegnanti, quanti ne avevano bisogno, avevano mandato semplicemente un computer, in modo che appunto un solo maestro potesse assolvere alle funzioni di tutte le classi. Questo è stato anticipatore rispetto poi sia a quello che è successo adesso con la pandemia. Questo è un tema molto caro, purtroppo abbiamo lottato contro la TAD perché riteniamo che sia uno strumento che va proprio contro la scuola, la didattica a distanza, l'uso delle tecnologie in maniera sballata. E io in Messico ho visto proprio questo, diciamo, prima ancora che succedesse qua. Fulvio, ti chiedo, oggi sei stato tutto il giorno lì all'incontro, buona parte l'abbiamo ascoltata anche noi, qual è stata la parte dell'incontro che ti ha, diciamo, lasciato di più una sensazione bella, piacevole? Cioè, secondo me l'introduzione, l'ho visto sudato. Ah, beh, sudava freddo, l'abbiamo visto anche noi. Era la parte meno interessante, ma quella che più mi ha colpito. Ragione voi. No, devo dire, mi ha fatto molto piacere in realtà proprio vedere l'interesse delle persone verso il modello della scuola, non solo della scuola, perché poi si è parlato anche di, diciamo, sanità, no? I promotori culturali, i promotori di salute. E, infatti l'incontro su richiesta dei zapatisti doveva essere un po' diverso, nel senso che loro avevano piacere a sapere noi chi eravamo, ma poi oggettivamente la curiosità delle persone ha caratterizzato la giornata, per cui ci sono state un mare di domande, ben oltre il tempo che avevamo stabilito. Infatti penso che ci denunceranno i zapatisti, perché proprio, insomma, li stiamo trattando malissimo, stiamo devastando ore e ore a farti domande. No, non scherzo, insomma, sono stati, anzi, come sempre, pazientissimi, gentilissimi, e ci offrono appunto esempi di come si resiste. Si resiste in maniera radicale, perché insomma, se noi ci lamentiamo di quello che abbiamo qua e facciamo bene, loro hanno difficoltà di gran lunga superiori. È chiaro, ci sono tanti limiti, ma quello che riescono a fare lo fanno con le loro forze, non hanno bisogno di nessuno. Hanno saputo costruire questo modello, lo dimostrano continuamente e quindi noi li seguiamo e li seguiremo sempre, insomma, finché continueranno in questo modo. Bene, Fulvio, grazie mille. Ok, grazie Fulvio, il nostro tempo finisce qui, la tua partecipazione è stata preziosa, come tutti gli altri che sono intervenuti, perché appunto a noi interessa moltissimo sentire appunto la voce di quelli che hanno aperto le loro braccia e i loro cuori alla causa zapatista. Allora ringraziamo Fulvio e ci vediamo in strada. Sì, quanto prima, e grazie a voi per quello che fate. Allora al più presto, grazie tante Fulvio. Questa era la voce di Fulvio Decobas, e invece adesso torniamo in musica e ascoltiamo I Soliti Aria dall'album Maledetti del 1976 con il brano Gerontocrazia. Radio Plaza. Radio Plaza. E la pare che tu tutto micro su todo sa Sankey, Paris. Potere delle nostra storia nei memori. Lascia che io scriva i passi tuoi. Vivi in pace la tua vita, non pensare e sogna felici. Eccoci, ritornati. Questa con l'ultima nota dei immancabili, degli imperdibili, degli straordinari, imprendibili, perché qui succedono cose strane e a volte, se non li conosci, anche imprevedibili. Area, questi erano gli Area ed ora invece è il momento di passare alla rubrica, come diceva un caro amico. Siamo al momento di che cosa si farà domani. Vabbè, vogliamo fare un saluto a Paolo Cacciari, certo, che è un nostro amico. È stato ospite a Radio Plaza. Lui che metteva l'accento sulla U di rubrica. E quindi nella rubrica cosa si farà domani vi raccontiamo che domani mattina la mattinata sarà dedicata ad un incontro con le comunità migranti di Castelvolturno. Mentre nel pomeriggio l'incontro ci sarà tra la delegazione zapatista con le realtà sociali in lotta a Caserta. E intanto, mentre vi ricordiamo, insomma, vi invitiamo a questi due eventi che si terranno domani, vi ricordiamo che per chi si fosse perso le tre puntate precedenti di questo giornale di Radio Plaza, che si ascolta su collettivoutopia.noblogs.org, ci sono già caricate le tre puntate precedenti dove vi raccontiamo quello che è successo in questi giorni e quello che sta ancora succedendo con questa gira e vai su collettivoutopia.noblogs.org e lì vai a cercare le puntate di Radio Plaza. Non ci sono solo queste che accompagnano la gira, ma ci sono anche altre puntate fatte in piazza o fatte anche altrove. Comunque c'è un bel po' di materiale da spulciare, da tramandare magari. Ed è arrivato adesso il momento delle suggestioni e dei suggerimenti dall'unico tuttologo che ci piace. Da oggi e per tutti i prossimi appuntamenti non perdetevi lo spazio di arte e cultura a cura di Richard Maddock, Altre strade. Buonasera a tutte e a tutti e a tutto, bentornati in questa rubrica. Il tema della giornata di oggi è uno di quelli a me più cari ed è quello dell'educazione. Parleremo di alcuni libri, alcune opere e spero vi daranno qualche input per le vostre ricerche di approfondimento dopo l'intensa giornata di oggi. Quello da cui vorrei iniziare è Insegnare al principe di Danimarca. È un libro molto interessante che parla appunto di un esempio locale, tra l'altro campano, di scuola, una scuola alternativa, modi di pedagogia dal basso che si rivolgono ai marginali, agli invisibilizzati, quindi ai bambini più sfortunati della nostra società, e cercano di fornire nuovi modelli di riscatto. È molto importante anche perché appunto l'autrice è una donna, ahimè, scomparsa. Qualcun altro a cui sono molto legato è Danilo Dolci. I suoi esempi della scuola sono molto importanti, quello che lui faceva anche in termini di resistenza passiva, scioperi bianco, scioperi al contrario. Io quest'estate sono stato proprio a Partenico e Trappeto, purtroppo non resta molto di quella sua esperienza e anche nella memoria. Invece la sua è stata un'esperienza molto importante che ha avuto anche un grande seguito poi nella memoria e, se vogliamo, anche nell'inconscio collettivo. Le idee di Danilo camminano su quelle degli altri, infatti Danilo tra l'altro ha incontrato Pino in passato, quindi in qualche modo, come vedete, si creano questi circoli, queste minoranze virtuose che poi non vogliono diventare maggioranze, ma vogliono propagare modelli diversi, fare quei cunei di contraddizioni di cui parlava Fofi, di cui abbiamo parlato nel primo episodio. Qualcun altro a cui terrei molto ci fosse il ricordo è Don Milani, magari potremmo leggere Lettere ai cappellani militari, vi invito a farlo, una lettera in cui parlava appunto del valore della disobbedienza civile, di violare leggi che sono ingiuste, leggi che hanno perso il loro scopo, che dovrebbe essere quello della felicità e del benessere della maggior parte delle persone e della salvaguardia anche dei loro valori, quindi temi molto attuali. Don Milani, famosa la sua scuola di Bibbiana, con la scritta, il cartello all'entrata in aula, I care, che voleva dire in particolare, rifacendosi all'inglese, io ho cura, ma anche io mi interesso. È dall'interesse verso l'altro che può nascere la cura. E quando noi riusciamo a empatizzare con le cause degli altri, a sentire come nostro le ingiustizie degli altri, è solo in quel modo che potremo veramente essere dei piccoli rivoluzionari e delle rivoluzionarie, ed è la base poi per quegli atti d'amore quali dovrebbero essere appunto l'insegnamento. E infine vi consiglio un documentario, ahimè molto difficile da reperire, che mi ha colpito moltissimo, si chiama L'acqua l'insegna la sete, da un verso di Silvia Plath. È la storia di questa scuola periferia romana, dove degli studenti avevano dei diari cinematografici, perché era questo il tipo di taglio di questa scuola, e dopo 10 anni l'insegnante li ritrova e incontra nuovamente queste persone. Quindi è una storia di sogni infranti, aspirazioni naufragate, molto delicata, molto tenera, perché ci fa veramente entrare in sintonia con queste persone e sentire la loro verità. I giovani, i giovanissimi regalano sempre tantissimo a chi li incontra, perché è come se non avessero filtri. E loro sono estremamente e profondamente veri, qualcosa che potrebbe fare anche paura, ma che in realtà è un grandissimo dono che purtroppo con l'età adulta perdiamo e quindi va valorizzato. E con questo vi saluto, a domani. genio, percezione, istinto e melodia. Di chi parliamo? Ma di lui, non serve neanche presentarlo. No, presentiamolo. Pino Daniele. Pino Daniele su Radio Plaza. Era Aria Strana. Era dall'album Mascalzone Latino del 1989. Sì, c'è una chicca su questo disco, che pare che proprio Pino Daniele abbia dichiarato che questo disco, Mascalzone Latino, fosse uno dei suoi preferiti. Beh, devo dire anche uno dei miei preferiti, siamo d'accordo. E siamo al momento della favola della buona lotta. Eh sì, ascoltiamo ancora da Fiabe Resistenti uno dei racconti del subcomandante Marcos dal Chiapas per tutti e tutte. La storia di stasera è la storia dello sguardo, appunto, interpretata da Max Bruno. Questa è Radio Plaza. Buon ascolto. La storia dello sguardo. Una lenta voluta di fumo esce dalla bocca del vecchio Antonio, che la guarda e con lo sguardo inizia a darle forma di segno e di parola. Al fumo e allo sguardo seguono le parole del vecchio Antonio. Guarda, capitano, qui devo chiarire che al tempo in cui ho conosciuto il vecchio Antonio avevo il grado di capitano in seconda della fanteria ribelle. Si trattava del tipico sarcasmo zapatista, perché eravamo solo in quattro. Da allora il vecchio Antonio mi chiama capitano. Guarda, capitano, c'è stato un tempo, molto tempo fa, in cui nessuno guardava. Non è che non avessero occhi gli uomini e le donne che camminavano per queste terre. Certo che li avevano, però non guardavano. Gli dèi più grandi, quelli che fecero nascere il mondo, i primi fra i primi, avevano fatto nascere senz'altro molte cose, senza però chiarire perché o per cosa, cioè la ragione o il lavoro che ogni cosa doveva fare o cercare di fare. Perché ogni cosa aveva il suo perché, visto che gli dèi che fecero nascere il mondo, i primi fra i primi, erano davvero i più grandi e sapevano bene il per cosa e il per come di ogni cosa. Insomma, erano dèi. Sembra però che questi primi dèi non si preoccupassero molto di quello che facevano. Facevano tutto come se si trattasse di una festa, di un gioco, di un ballo, insomma. E i più vecchi fra i vecchi, infatti, raccontano che quando i primi dei si riunivano si poteva stare certi che c'era una marimba, perché le loro assemblee finivano sempre con canti e balli. E dicono che se la marimba non era a portata di mano, allora semplicemente non si faceva neanche assemblea. E gli dèi se ne stavano lì, grattandosi la pancia, raccontandosi barzellette e facendosi i dispetti. Bene, il fatto è che i primi dèi, i più grandi, fecero nascere il mondo, però non spiegarono il perché e il per come di ciascuna cosa. E una di queste cose erano gli occhi. Avevano forse detto gli dèi che gli occhi erano per guardare? No, di certo. Quindi così vivevano i primi uomini, le prime donne che camminarono per queste terre. Alla cieca, fra colpi e cadute, scontrandosi fra di loro, afferrando cose che non volevano e perdendo quelle che invece volevano. Così come fa molta gente anche adesso. Prende quello che non vuole e le fa male e lascia quello che le serve e le farebbe bene. Gli uni inciampano e si scontrano con gli altri. Insomma, i primi uomini e le prime donne avevano gli occhi, certo, però non guardavano. E molti e molto diversi erano i tipi di occhi che avevano i primi uomini e le prime donne. Li avevano di tutti i colori e di tutte le misure. Li avevano di tante forme differenti. Avevano occhi rotondi, a mandorla, ovali, piccoli, grandi, medi, neri, blu, gialli, verdi, marroni, rossi e bianchi. Sì, molti occhi, due per ogni uomo e ogni donna. Però tutti questi occhi non guardavano niente. E così sarebbe continuato fino ai nostri giorni, se non fosse che una volta successe qualcosa. Successe che i primi dei, quelli che fecero nascere il mondo, i più grandi, stavano festeggiando perché era agosto, che è il mese del ricordo e del domani. quando alcuni uomini e donne che non guardavano capitarono dove c'era la festa degli dèi e si scontrarono con gli dèi, mentre alcuni inciamparono sulla marimba buttandola a terra. Allora la festa divenne un vero casino e si fermarono i canti e i balli, e dato che anche il ballo si era fermato e c'era una gran confusione, i primi dèi si muovevano di qua e di là cercando di capire perché si era fermata la festa, mentre gli uomini e le donne che non guardavano continuavano a inciampare e scontrarsi fra di loro e con gli dèi. E così passò un bel po' di tempo, fra scontri, cadute, imprecazioni e maledizioni. Alla fine, gli dèi più grandi si resero conto che tutto quello scompiglio si era creato quando erano arrivati quegli uomini e quelle donne. E allora li riunirono e chiesero loro se, per caso, non guardavano dove camminavano. E allora i primi uomini e le prime donne non si guardarono gli uni con le altre, perché non sapevano guardare. Però domandarono agli dèi che cosa era guardare. E allora gli dèi che fecero nascere il mondo si resero conto che non avevano chiarito a che cosa servivano gli occhi, ossia qual era la loro ragione di essere, il perché e il per come degli occhi. E così gli dèi più grandi spiegarono ai primi uomini e alle prime donne che cosa era guardare e insegnarono loro a guardare. Così impararono questi uomini e queste donne che si può guardare l'altro, sapere che esiste e che c'è e che è altro. Impararono così a non scontrarsi con lui, né a schiacciarlo, né a passargli sopra, né a ostacolarlo. Scoprirono anche che si può guardare dentro l'altro e vedere ciò che sente il suo cuore. Perché non sempre il cuore si racconta con le parole che nascono dalle labbra. Molte volte con la pelle, con lo sguardo o con i passi ci parla il cuore. Impararono anche a guardare chi guarda guardando se stesso, ossia quelli che cercano se stessi negli sguardi degli altri. E impararono a guardare gli altri che li guardano guardare. E i primi uomini e le prime donne impararono tutti gli sguardi. E la cosa più importante che impararono è lo sguardo che guarda se stesso e sa e si conosce. Lo sguardo che guarda se stesso guardando e guardandosi, che vede cammini e vede domani non ancora nati, cammini ancora da percorrere e albe non ancora nate. In seguito, gli dèi che fecero nascere il mondo diedero a quegli uomini e quelle donne che erano arrivati inciampando, scontrandosi e facendo cadere tutto, il compito di insegnare agli altri uomini e alle altre donne come si guardava e il perché del guardare. E così impararono i diversi a guardare e a guardarsi. Ma non tutti hanno imparato, perché il mondo aveva già cominciato a girare e gli uomini e le donne andavano già dappertutto, inciampando, cadendo e scontrandosi con gli altri. Invece alcuni e alcune hanno imparato, e queste e questi che hanno imparato a guardare sono detti uomini e donne di mais, gli autentici. Rimase in silenzio il vecchio Antonio. Io lo guardai guardarmi e distolsi lo sguardo guardando un qualsiasi angolo di quell'alba. Ma che bella questa favola! E anche la favola l'abbiamo ascoltata fino all'ultimo decimo di secondo. Fino all'ultimo sguardo, mi verrebbe da dire, per restare in tema. Va bene, e siamo ai saluti finali. Siamo. Però questa sera voglio fare un appunto, posso farlo? Appunto. Ieri sera ci siamo dimenticati di presentare l'ultimo brano, quello di chiusura. Ah, è vero. Poi ieri sera ho sbagliato anche il titolo della rubrica di Richard Madoc. Ieri sera ho detto altre storie, ma insomma. Vabbè, ma te l'avevamo già perdonata mi suggerisce niente. Ti avevamo perdonato, perché ieri comunque è stata una giornata intensa. Mi avevate perdonato, perché il perdono si può anche ritirare. Certo. Ah, si può ritirare il perdono. Si va allo sportello e si ritira e si passa poi per la maledetti cattolici. Torniamo a, anzi no, questa volta vi salutiamo, salutiamo chi, tutte le persone che ci stanno ascoltando su collettivoutopia.noblogs.org. Ricordiamo che sono già disponibili le tre puntate precedenti e vi diamo appuntamento a domani per la prossima puntata. Ricordiamo che domani sarà la giornata dedicata ai migranti, alle lotte sociali, e allora domani alle 21:30. Vogliamo salutare anche tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata. E poi volevo fare un'altra sottolineatura, un saluto cordiale e affettuoso al collettivo Utopia, che promuove Radio Plaza da un po' di anni a questa parte. Bene, io poi salutiamo d'accordo. Fulvio, che è intervenuto, Fulvio dei Cobas, tutte le voci che ci hanno regalato, Barbara le di emozioni, sì. Gli studenti, diciamo, un saluto anche caloroso alla delegazione zapatista, che è sempre più simpatica. È vero, da quando è arrivato, diciamo, il livello di simpatia della delegazione cresce vertiginosamente. Quasi ci dispiace che tra un po' vanno via. Infatti qualcuno lo sequestreremo. Norma, sequestriamo Norma, ce la che teniamo carina in radio. Va bene, allora è andata così, è passata anche quest'altra puntata di Radio Plaza. E per passata. Non dimenticare l'ultimo brano, ci salutiamo con Porque esto ya comenzo, e posso dire solo questo: Dos vientos de voz y fuego. E Z. Devo. E ZLN 2010, El Fuego y la Palabra del 2004. E allora a domani con Radio Plaza. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Comenzó y nadie lo va a parar.